Europa 24. L'occupazione è uno dei temi fondamentali nel dibattito europeo, in particolare l'occupazione dei giovani. Buongiorno da Sergio Nava e bentrovati a Europa 24. Oggi parliamo dell'iniziativa europea per l'occupazione giovanile, varata oltre un anno fa dai leader dell'Unione e dotata di un fondo da 6 miliardi di euro. In Italia è stata tradotta nella Garanzia Giovani. I programmi a livello continentale sarebbero dovuti partire quest'anno, ma al momento solo quello italiano e quello francese sono stati formalmente approvati da Bruxelles. Gli altri registrano ritardi. La cancelliera tedesca Angela Merkel ha criticato duramente i risultati del progetto, almeno quelli provvisori. Ne parliamo oggi con il commissario europeo all'occupazione Laszlo Andor, con il quale partiamo analizzando la situazione dell'occupazione in Italia. E parliamo soprattutto dei progetti di riforma del mercato del lavoro. L'Italia ha diverse sfide davanti a sé nell'agenda occupazione. Negli ultimi anni abbiamo registrato varie ondate di riforma del mercato del lavoro per renderlo più inclusivo. Sappiamo che i giovani italiani hanno ormai accesso a lavori di bassa qualità in molti casi, mentre il tasso di disoccupazione di questi stessi giovani è 3 volte superiore alla media europea. Quindi c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nel modello di occupazione italiano. Non esiste ovviamente un'unica soluzione al problema, ma ce ne sono varie. Come per esempio migliorare la capacità del servizio pubblico di impiego, oppure usare meglio i fondi europei. Non nego che gli ultimi 2 governi, Monti e Letta, abbiano fatto molti progressi, ma c'è un grande bisogno di proseguire su questa strada per creare opportunità per i giovani. Ciò che è cruciale in questo processo è la piena applicazione della garanzia giovani, che consentirebbe di limitare la durata della disoccupazione a 4 mesi. Ciò richiederà che i servizi pubblici per l'impiego offrano buone opportunità ai giovani nella forma di lavoro, tirocinio o formazione. Il piano di implementazione italiano è buono, ma ora il governo deve fare in modo che divenga realtà. Cosa ne pensa del Jobs Act proposto dal governo italiano? Non rischia al momento di precarizzare ulteriormente il mercato del lavoro dei giovani, ma soprattutto non pensa che il progetto di contratto unico a tutele crescenti che la Commissione europea appoggia debba avere la priorità? Il problema è la segmentazione del mercato del lavoro italiano. Noi possiamo fornire idee, ma non possiamo prendere decisioni da Bruxelles. Come può divenire l'Italia un paese più competitivo? Questa è la domanda fondamentale sul lungo periodo. Negli ultimi anni la recessione e la mancanza di investimenti sono stati un peso per l'economia italiana. E una delle ragioni è che i lavoratori spesso non hanno le qualifiche appropriate o che è difficile per le aziende riorganizzarsi per affrontare la globalizzazione. Insomma, gli aspetti sono diversi e vanno considerati tutti, non devono esserci tabù. Il contratto unico è una possibilità, ma soprattutto occorre sentire la responsabilità verso le giovani generazioni. L'iniziativa europea per l'impiego giovanile funziona? Al momento solo Italia e Francia hanno visto i propri programmi approvati a Bruxelles e la cancelliera tedesca Merkel ha espresso tutta la propria frustrazione a fine giugno per la lentezza nella partenza del programma. Non penso che i politici possano parlare senza conoscere i dettagli. L'iniziativa per l'impiego dei giovani in Europa non implica spese automatiche. La Germania non ha mai sostenuto spese automatiche, tra l'altro. Attualmente non c'è alcun ritardo nell'iniziativa. L'accordo è quello di spendere i 6 miliardi fra il 2014 e il 2015. Gli Stati membri inoltre potranno combinare più fondi europei. Non solo i 6 miliardi stabiliti, ma anche il Fondo Sociale Europeo, che ha una capacità ben maggiore, eppure le risorse nazionali. Gli Stati sono liberi di scegliere ciò che vogliono spendere prima. Inoltre, i Paesi stanno tuttora spendendo fondi comunitari di programmazioni precedenti. Insomma, stiamo ben attenti a non lanciare messaggi confusi. Quindi lei non è preoccupato, mi sembra di capire, circa l'implementazione dell'iniziativa per l'occupazione giovanile? Sono due questioni diverse. La prima è spendere fondi specifici, la seconda è implementare la garanzia giovani. A mio parere, alcune persone stanno deliberatamente creando confusione. Vogliono evitare discussioni sulle politiche macroeconomiche e creano confusione sul tema dell'iniziativa per l'occupazione giovanile. Iniziativa che non mi vede preoccupato. Tutto procede secondo i piani stabiliti. Non c'è alcun ritardo. E cosa ne pensa della garanzia giovani italiana nello specifico? La considera un modello? È soddisfatto? Penso che sia importante che le azioni facciano immediatamente seguito al piano. L'Italia può già costruire sulla base di modelli di successo, come quello toscano di Giovani Sì. Con queste risorse addizionali potrà rendere operativa la garanzia giovani per tutti. È un grande sforzo. Fino ad oggi i servizi pubblici per l'impiego italiani non funzionavano ad avere in buona parte del paese. Ma ciò dimostra che la garanzia è qualcosa che non si può implementare dall'oggi al domani. Richiede lavoro, richiede una organizzazione. Ed è tutto per questa edizione di Europa 24. Ancora un saluto e un augurio di buona giornata da Sergio Nava. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.